Ginnastica mentale. Passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Robby di Chivasso. Vorrei dedicare Ripassa a Enzo di San Benigno, che sabato, cioè oggi, compie 20 anni. Auguri, mitico! Ding, pau, passa, cabaça. Ding, pau, a cabaça, arau. Pacatu, pacatu, pacatu, catuta. Pacatu, pacatu, ding, pau. Pacatu, pacatu, pacatu, catuta. Pacatu, pacatu, passa, cabaça. Pacatu, pacatu, pacatu, catuta. Pacatu, pacatu, ding, pau. Pacatu, pacatu, pacatu, catuta. Pacatu, pacatu, pau, pau, pau. Ding, pau, passa, cabaça. Ding, pau, a cabaça, arau. Ding, pau, passa, cabaça. Se volete scrivermi, 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Vorrei dedicare il reparto pelle d'oca a tutti i miei colleghi marinai che fino a qualche giorno fa erano con me in Libano. In bocca al lupo, ragazzi. Passerà. Giuseppe. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Volevo salutare Pie e Lelle, miei compagni di live. Chianto. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Isao, lume, a passo fine scino, chi c'è, Gigi D'Agostino. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. È antica roba, va. Buona, buona, buona. Il mondo sta diventando fittizio. Ci sono dei software che possono truccare le elezioni. E ci sono delle pillole che possono truccare le erezioni. Anonimo genovese. cammino di Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male e non distingue lo zucchero dal sale. Cercate di sorridere, perché un sorriso sincero può seppellire il mondo intero. E tu, Gigi, ci riesci. Balordo da Pistoia. Il mondo è buio anche a mezzogiorno, per quelli che non sanno ridere. Tiru Valluvar, Tiru Valluvar, poeta indiano del 200 avanti Cristo. Sono Domenico di Lei Nate. Saluto la mia vita, che si chiama Sara. La voglio sposare. Gigi saluta a tempo Isa e Chica, Luigi di Santa Severina, Valentina da Roma, Filippo 84 da Monopoli, Lupo in terzo e Francesca da Monopoli. Senza Gigi D'Agostino. Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Discoteca La Gare, Torino. Ci vediamo domani pomeriggio a Torino, discoteca La Gare. Ci vediamo La Gare. Ci vediamo La Gare. Ciao Gigi, sono Beatrice da Torino e ti ascolto sempre. Vorrei ascoltare una delle tue prime canzoni. Sono Riccardo di Udine. Suonami la canzone in cui dici: ho fatto un sogno di quelli strani. Grazie. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Bene è ciò che unisce, male è ciò che separa. Bene che unisce, male che separa. Aldous Leonard Huxley. Il cammino di Gigi D'Agostino. musica che unisce. Un bacio a tutti i giovani valgranesi. Quando c'è la riunione all'oratorio, ti ascoltiamo anche lì. Valgrana c'è. Nel mondo che non c'è. Vorrei dedicare Thank You For All a Robbie B, Dallas, Dido e Alessandra. Vi voglio bene, raga. Chicco. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, sangue sul valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. Al destino, ta-da-da-da. La tua musica ci aiuta ad amare ed è una sensazione unica al mondo quando si vuole un bene profondo. Dedico il cammino a mia moglie e a mio figlio, la piccola peste. Oggi è il mio compleanno, 37 anni, t'amarro da quando ne avevo 15. Se ricevessi gli auguri da te sarebbe il massimo, specie su Luce, che mi e ti dedico, perché per me, tu e la tua musica siete luce. Maurizio di Olgiate. Ciò che penso è molto intenso, al nuovo buio io sono propenso, perché dal buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale. Sommo poeta, vorrei dedicare la canzone della prima volta ad Erika per ringraziarla dei bei momenti passati insieme sopra e sotto le coperte. Ti voglio tanto bene, Matteo. Se per te la prima volta, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Se per te la prima volta, lasciati andare. Te la prima volta, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3, 3, 3. 64 67 662. Capito come? Ovvio. Siamo Lilla e Jax. Ci fai sentire Don't Cry Tonight? Sì. Il 10 dicembre del 1979 nasce Mario Di Pasquale, fornaio e grande ascoltatore di Gigi D'Agostino. Buon cammino, Mario. Chi ha da fare non ha tempo per le lacrime. Albert Einstein. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Luciano, sei qualcosa di estremamente speciale per me, anche se ancora non ci conosciamo bene. Elisa da Martinsicuro. Sono dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Vedo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Storia, domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. Sei un ostacolo sei solo un sogno. Io ti prego, stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Gigi saluta a tempo Gianuaria e Alessandra da Catanzaro, Marco da Grugliasco, Gloria da Chieri, Fabrizio Mora Marco da Torino. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Comportamento del movimento, lo spostamento di ogni momento. Comportamento del movimento, lo spostamento di ogni momento. Non intendo altra cosa, la mia mente è smusicosa. Intendo altra cosa, la mia mente è smusicosa. Ora potè, quiero ballar, musica mentale. Quiero ballar, musica mentale. Quiero ballar, musica mentale. Quiero ballar, musica mentale. Non intendo altra cosa, la mia mente è smusicosa. Non intendo altra cosa, la mia mente è smusicosa. No, così. Stasera Gigi D'Agostino suona in Austria, discoteca Nachschied, Innsbruck, Austria. Per maggiori informazioni www.gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Non sarò originale, ma ti dico bravo. Saluto i miei cari amici Ricky e Rudy. Grazie a loro ti ho conosciuto. Carlone da Bologna. sono DJ 9. Vorrei dedicare senza ragione a Giovanni DJ. Ieri era il suo compleanno. Giovanni, ti vogliamo bene. Ci sono giorni che sono triste, ma sto bene, non so più se il colore del sereno sia quel nero dolce blu. Ho bisogno di quel buio che sta lì dentro di me per capire, per astarmi della luce intorno a me. M2O, musica allo stato puro, da ripire sicuro. Mentre scrivo sta canzone sono in viaggio e penso che Spagna e Francia sti paesaggi mi raccontano di te. Non c'è cosa e non c'è luogo che non sappia di noi due, elevare il nostro amore con le ali di E2. Non ha senso una ragione che ti induce a dirmi che soffri dopo un amore, quella lì non fa per te. Ma che senso quando soffro solo io so che mi fa. Io non voglio stare tranquillo, voglio questa vita qua. Mi distruggo con violenza, ma in altro penso che se non posso non capisco cosa mi va per dovere. Può sembrare una canzone di un bizzarro iettatore, ma son solo dei sentieri di un dottore pensatore. Non è vero che son triste, sono sensazioni miste. Sto devasto che mi ha avvolto, mi ha rapito, mi ha sconvolto. Malinconico e struggente è il mio mondo, sì lo so, ma piuttosto che la plastica io lascio e me ne vo. Per favore, suona Again. La musica è un ottimo tranquillante e non vi è medicina migliore. Le amicizie riannodate richiedono sempre maggiori cure rispetto a quelle che non hanno subito rotture. François de la Rochefoucauld. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Io e Roberto festeggiamo 4 anni d'amore intenso e felice. Gigi, ci dedichi l'amour toujours. Alessandra da Torino. Siamo Maggie e Zizi. Volevamo fare gli auguri alla nostra sorellina Mary, che compie 2 anni. E vogliamo dedicarle l'amour toujours. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Gigi, sono Marcella. Se stavolta non leggi il mio messaggino, mi incazzo. Fammi ascoltare l'Amour Toujours. La dedico a Franci, che lo amo tanto. Grazie, Gigi. Sono Anto. Mia madre sta addobbando l'albero di Natale e mi ha detto che è pazza per la tua musica. Basta guardare come balla. Suoni e colori per bimbi e genitori. Cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare Per me amore al mio Albe, dalla sua Summer, che lo ama tanto. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amare, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse capirlo, forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato, perché chi ama non lo sa spiegare. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me l'amore vuol dire aver incontrato te. Gigi D'Agostino saluta a tempo la Zarretta di Como. Nadia e Andrea da Milano. Non voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Ehi Gigi, mi faresti ascoltare Complex? Grazie, da Rosy. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Torino senza Gigi D'Agostino. Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Ci vediamo domani pomeriggio a Torino, discoteca alla gara. Vorrei dedicare lo sbaglio a Fede. Sono felice di averti conosciuto. Valentina da Mendrisio.